America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Our unalienable right to life and liberty and the pursuit of happiness, those rights were stripped from college kids in Blacksburg, in Santa Barbara. And from high schoolers at Columbine. Barack Obama che annuncia l'introduzione di alcune misure per migliorare i controlli sulle vendite di armi negli Stati Uniti. Beh, la notizia era attesa, però il discorso è improvvisamente diventato storico. Perché? Perché erano inattese la passione, la determinazione con cui il presidente americano ha pronunciato questo suo discorso alla Casa Bianca in compagnia di famiglie delle vittime di omicidi di massa negli Stati Uniti, ha implorato gli americani perché facessero prevalere il buonsenso sugli interessi che controllano il Congresso. Ma torno a dire, è stata l'emotività che davvero mi ha colpito in questo discorso. Il presidente era commosso, è stato un crescendo a un certo momento a partire proprio dalla frase che vi ho fatto ascoltare, perché qui il presidente, come avete sentito, si scalda, la voce si fa molto più intensa e dice: parliamo del nostro inalienabile diritto alla vita, alla libertà, al perseguimento della felicità. È vero che c'è il secondo emendamento alla Costituzione che tutela il possesso di armi, ma questi diritti sono dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, e di questi diritti sono stati privati i ragazzi dei college di Blacksburg, a Santa Barbara, o i ragazzi del liceo di Columbine. Ecco, la voce del presidente parte con una tonalità, come dire, più elevata del normale, e poi si fa progressivamente più subdued, si direbbe, più pacata, perché a un certo punto il presidente, dopo aver parlato dei ragazzi del liceo e di Columbine e dei ragazzi dell'università, a un certo punto ricorda anche i ragazzi di Newton, i ragazzi della prima elementare, 20 bambini di 6-7 anni uccisi da un giovane di 20 anni che era improvvisamente impazzito. La madre teneva un arsenale in casa, portava questo giovane, che era chiaramente uno squilibrato, pensate, lo portava al poligono di tiro. Ed è stato qui che il presidente, che a un certo punto si fa riflessivo, gli prende un groppo alla gola, non riesce più a parlare, gli occhi diventano rossi, poi cominciano a scorrere delle lacrime sul volto. Ecco, tutto questo voi non potete vederlo, ma potete immaginarlo. Potete immaginarlo, perché a un certo punto sentirete nel silenzio del presidente gli scatti delle macchine fotografiche, proprio quasi una mitragliata di questi scatti di fotografie che cercano di cogliere l'immagine del presidente in lacrime. Devo dire, è stato un discorso straordinario, per questo resterà storico, per il pathos che si è creato in questo momento in cui quest'uomo, questo presidente degli Stati Uniti, si sente vicino ai parenti delle vittime, ai genitori delle vittime. Ma perché? Perché Obama va a incontrare i parenti dei ragazzi uccisi, li vede, li abbraccia, sente le loro storie. Dunque è inevitabile che, anche se sei il presidente degli Stati Uniti, il ricordo, l'emozione, il dramma, il dolore di queste persone viene in qualche modo metabolizzato. E qui abbiamo visto davvero Barack Obama uomo, Barack Obama leader, Barack Obama che vuole cambiare qualcosa per il meglio. Ecco, sentiamo queste frasi di Barack Obama che continua in questo suo discorso. And from first graders in Newtown. First graders. And from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. Ecco, avete sentito, il presidente riprende la frase precedente, cioè di questi diritti di cui sono stati privati i vari ragazzi al liceo, all'università, e gli alunni, dice, continua, gli alunni di prima elementare di Newton. Di prima elementare, ripete, e di questi diritti sono stati privati anche le famiglie, che non avrebbero mai immaginato che la vita dei loro cari sarebbe stata presa così da un proiettile sparato, da una pistola. Ogni volta che penso a quei ragazzi divento furioso, e questo continua a succedere in ogni parte degli Stati Uniti, accade ogni giorno per le strade di Chicago. Today, background checks are required at gun stores. Ecco, in questa parte del discorso Barack Obama annuncia alcune delle misure, la parte più concreta del discorso. Intanto introduce l'obbligo, obbligo che oggi non c'è, di controllare il background, il passato di chi vuole comprare un'arma da fuoco, vedere che non ci sia una fedina penale sporca, che questa persona non sia un criminale, vedere che non abbia dei problemi di squilibrio psichico, e qui c'è un problema di privacy. Eppure Obama dice dobbiamo superare questa difficoltà, perché se tu vuoi comprare un'arma, una pistola, un mitra, devi dimostrare di essere sano di mente, devi aprire quelle che sono le tue cartelle mediche. Di nuovo, oggi questo non è previsto. Ci sarà l'obbligo per chi vende le armi di avere una licenza. Oggi, pensate, si possono vendere armi, pistole via internet, come vi dicevo, oppure nelle fiere dove si va, non si sa da chi si compra, non si sa chi compra, e dunque si arriva semplicemente, attenzione, all'introduzione di un obbligo che da noi sarebbe considerato il minimo indispensabile. Cioè, ti vuoi comprare una pistola? Benissimo, puoi comprarla. Però dici chi sei e dici che tu sei una persona responsabile. Ci saranno controlli molto più severi per coloro che vogliono acquistare armi particolarmente pericolose, perché oggi andate in un negozio di armi qua in America e potete comprare non soltanto, vabbè, dei fucili da caccia, per carità, assolutamente normale, ma fucili a canne mozze, mitra d'assalto. Non è, attenzione, che Obama dice no, non le vendiamo. No, dice benissimo, continuate a venderle, però introduciamo questi controlli. Dovranno denunciare i venditori d'armi il fatto che alcune armi magari sono state perse, sono state perdute. Saranno stanziati 500 milioni di dollari per aiutare coloro che sono afflitti da problemi psicologici, come contropartita del fatto che debbono rendere nota la loro cartella medica. L'FBI annuncerà 230 agenti che applicheranno le attuali leggi, perché ci sono già delle leggi, però non sono applicate. Ecco, insomma, sono una serie di innovazioni che, attenzione, cercano soltanto di controllare. Eppure, a fronte di questo discorso di Obama così emotivo, così forte, la reazione dell'opposizione è stata durissima. Sentiamo. One of America's most powerful and influential lobbying groups has some explaining to do this year. Ecco, qui avete sentito la posizione della National Rifle Association, NRA, che è la lobby pro armi degli Stati Uniti, potentissima, assolutamente potentissima, milioni di iscritti, e denuncia la NRA, denuncia degli abusi di potere da parte dell'amministrazione e del fatto che gli abusi cresceranno con l'introduzione di queste norme, e dice specificatamente: l'evento di oggi rappresenta un tentativo per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla mancanza di una strategia coerente per difendere i cittadini americani dagli attacchi terroristici. Ecco, ribaltano la frittata questi dell'NRA, cioè dicono che è colpa di Barack Obama se ci sono questi attacchi, perché non riesce a prevenirli, perché prendersela con i cittadini comuni che semplicemente vogliono essere in possesso di una pistola, ignorano di fatto il problema. Ma sentiamo anche il repubblicano Paul Ryan, il presidente della Camera. I think he's playing politics. It's remarkably unpresidential, Sean. I don't for the life of me understand this. Ecco, Ryan riprende lo stesso tema, e cioè, come dire, sono abilissimi, perché è chiaro che la partita è politica, ribalta di nuovo un po' la frittata e dice: dal giorno 1 del suo insediamento il presidente non ha mai rispettato il diritto di possedere in modo sicuro e legale un'arma che la nostra nazione ha garantito sin dalla fondazione ai suoi cittadini. Invece di concentrarsi sui criminali, sui terroristi, di potenziare la polizia, di combattere questi criminali, contro chi va? Contro i cittadini che rispettano la legge. Le sue parole, le sue azioni rappresentano una forma di intimidazione che minaccia la libertà, e aggiunge: il suo ordine esecutivo senza alcun dubbio sarà portato davanti a un tribunale. Infine, ogni cosa che il presidente ha fatto potrà essere ribaltata da un presidente repubblicano, che è un'altra ragione su perché dobbiamo vincere a novembre. Ecco, la partita è chiaramente diventata una partita politica. Lo stesso Barack Obama ha incoraggiato i cittadini americani a seguirlo lungo questo percorso che definisce della ragione, e ha chiuso di nuovo con un attacco che diventa chiaramente un attacco politico. Sentiamolo. So the gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage. Non possiamo accettare questa carneficina, dice Obama, come il prezzo della nostra libertà. Le lobby delle armi potranno anche tenere in ostaggio il Congresso, ma non possono tenere in ostaggio l'America. Ecco, di nuovo parole forti. Perché? Beh, perché Obama ha detto, ma questo lo sappiamo dalle statistiche, che ci sono in America 30.000 morti all'anno per armi da fuoco, suicidi, incidenti. Soltanto l'anno scorso sono morti 30 bambini, bambini di 4, 3, 5 anni che avevano maneggiato le armi dei genitori. Obama si domanda, dice, ma perché, se possiamo mettere un codice che impedisce l'accesso a un telefonino, non so, l'impronta digitale, non possiamo fare lo stesso per una pistola? anche il progresso della tecnologia farà parte dell'ordine esecutivo. Ecco, facciamo un confronto: 30.000 morti all'anno in America per incidenti d'arma da fuoco. Di poco inferiore di quanti ne muoiono ogni anno per incidenti d'auto, anche questo lo ha ricordato Barack Obama, per cui pensate, se potesse essere, come dire, un risparmio di vite umane del 20%, sarebbero già 6.000 americani che avrebbero la vita salva grazie all'introduzione di queste misure. Ma il confronto ancora più interessante è con le guerre. Pensate, da quando è partita la guerra contro Osama Bin Laden, la guerra in Afghanistan contro i talibani, parliamo del 2003, ad oggi abbiamo avuto la guerra in Afghanistan e quella in Iraq. Ebbene, in Afghanistan sono morti circa 2.326 soldati americani, in Iraq 4.815, stiamo parlando complessivamente di quasi 7.000 soldati in 12 anni di guerra, come dire 564 soldati all'anno morti nelle guerre. In America ne muoiono 30.000 all'anno, c'è una guerra in casa che non può essere ignorata. Per questo Obama ha varcato ieri questo Rubicone ideale, per questo si rende conto che la battaglia sarà difficile, ha ricordato le battaglie per i diritti civili, ha detto questo non accadrà in una notte, non succederà durante questo congresso, non succederà durante la mia presidenza, ma il fatto che sia difficile non è una scusa per non provare a cambiare le cose. Ecco, devo dire che Obama è certo che l'opinione pubblica lo seguirà, per noi sembrerebbe normale, e dopo le lacrime e la passione che hanno caratterizzato questo suo discorso di ieri, la sfida è aperta, la sfida politica, però dobbiamo chiederci, sarà poi vero che la maggioranza degli americani è pronta a seguirlo questo presidente? Perché su questo punto in realtà non vi sono certezze, la battaglia a questo punto diventa politica, le elezioni parleranno chiaro fra pochi mesi. Di certo sappiamo che la strada imboccata da Obama è non soltanto quella giusta, ma quella inevitabile anche per i repubblicani al congresso, in futuro magari, dobbiamo augurarci in un futuro non troppo lontano. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!